Chissà come sarà venuto in mente a due studenti di prima di un liceo milanese, chissà come sarà venuta in mente l'idea di mandare una loro compagna a scuola un mazzo di fiori con un biglietto che gli evocava una notte indimenticabile. L'usanza di celebrare con un omaggio florale gli incontri galanti appartiene più al repertorio dei viveri di fine Ottocento che al bon ton contemporaneo. Non risulta che la pratichi nemmeno un inguaribile passatista come il presidente Berlusconi, e mi piacerebbe proprio sapere a quale fonte i due bravi giovani si siano ispirati. Evidentemente il repertorio delle letture dei liceali è più ampio di quanto normalmente si creda e comprende almeno qualche autore non in programma, che so, se non proprio D'Annunzio, almeno Tom Antongini o qualcuno del genere. Comunque non era vero niente. Non c'era stata nessuna notte indimenticabile e quei fiori erano soltanto uno scherzo mirante a mettere in pubblico imbarazzo la destinataria. È improbabile, naturalmente, che le cose siano andate proprio come riferiscono le cronache, con il bidello che arriva in classe con i fiori, la ragazza che arrossisce, i compagni che escono in un boato e così via, perché, per quel che ne so io di licei, se a scuola arriva un mazzo di fiori per un'alunna, è difficile che un bidello provveda a recapitarlo direttamente in aula, è molto più verosimile che il bouquet finisca subito in presidenza. Ma come siano andate le cose, le goliardate del genere sono sempre da deplorarsi, visto che tutti, studentesse di prima liceo comprese, hanno diritto alla più ampia riservatezza su come passino o non passino le proprie notti. E bene ha fatto il consiglio di classe a infliggere ai due spiritosoni la pena di un giorno di sospensione da scontarsi lavorando in biblioteca. Una sentenza abbastanza equilibrata che fa sperare che nelle scuole il buon senso non sia completamente estinto. Molto meno sensata, naturalmente, è stata l'iniziativa di chi, nelle more del procedimento disciplinare, ha pensato bene di mettere il tutto nelle mani della polizia, con conseguente arrivo degli agenti in istituto, interrogatorio dei reprobi e diffusione della notizia a mezzo stampa, con il risultato che la riservatezza di cui sopra adesso esclude gran parte dei lettori di quotidiani dell'area metropolitana. Ma questa, se ci pensate, ormai è la regola. È da tempo che non c'è irregolarità grande o piccola della vita scolastica, episodi di bullismo, vandalismi, piccoli reati, intemperanze sessuali vere e presunte, adesso persino gli scherzi, che non sia destinata all'attenzione dei commissariati di pubblica sicurezza prima e delle redazioni poi. È come se la società degli adulti si sia risolta a monitorare con ogni mezzo le nuove generazioni, ne segua i comportamenti con tanta ansia e tanta diffidenza da non riuscire più a contentarsi del controllo istituzionale della scuola, da volere una sorveglianza sempre più cogente e sempre più punitiva. Perché la polizia, si sa, si occupa di criminali, e chiamare la polizia significa voler criminalizzare gesti e atteggiamenti che si considerano degni di censura, senza porsi neanche per sbaglio il problema della coerenza di interventi del genere con il processo educativo. Quell'ansia e quella diffidenza, d'altra parte, non nasceranno dal nulla. Sono occhio croce una discreta manifestazione di paranoia. E non ci vuol neanche molto ipotizzare che rappresentino in buona parte l'espressione di un qualche senso di colpa da parte di chi si rende conto, più o meno confusamente, di quali orrendi modelli valoristici e comportamentali questo mondo propone ai nostri futuri posteri. Difficile, per dirne una proprio a livello banale, difficile che il concetto di riservatezza allini nelle menti di chi negli anni formativi abbia avuto occasione di imbattersi in qualcosa del tipo del Grande Fratello. E finché deficit culturali di questo tipo conducono a scherzi a base di mazzi di fiori, vabbè, poco male. Ma gli invidi mazzi di fiori, cose di questo genere, succedono solo nei licei classici del centro. Nell'Interland, in periferia, si va molto più sul sodo, sul pesante. Credo sia stato appunto in un'aula di una scuola dell'Interland milanese che giorni fa una quattordicenne, sempre letto sui giornali, si è esibita in un pubblico incontro sessuale con un coetaneo a beneficio dei videotelefonini di alcuni condiscepoli. Anche lì Manco a dirlo, sono intervenuti poliziotti e giornalisti in gran coppia. Con quanto vantaggio per un sereno sviluppo psichico-culturale di quei minorenni è facile pensare. Comunque è interessante che quando qualcuno ha cercato di farsi spiegare dall'interessata le motivazioni del suo comportamento, lei non ha risposto che lo aveva fatto perché le sembrava una buona idea e comunque erano fatti suoi o qualcosa del genere. Ha detto semplicemente che non c'era niente di male perché glielo avevano chiesto. Voleva dire, presumo, che nessuno l'aveva costretta, ma forse la risposta implica anche il concetto per cui quando ti offrono un'occasione di pubblicità, in un mondo che dà sempre più importanza all'esibizione di sé, bisogna saperla cogliere al volo, stolto è chi non accetta. Nel caso si capisce la mancanza di riservatezza era voluta e non subita, ma di un problema di riservatezza sempre si tratta. Forse non sarà esagerato supporre che la poverina abbia vissuto quell'esperienza come una sorta di preparazione al ruolo di protagonista del prossimo reality show.